alzata 5 e mezza di mattina. La vita è grama, la giornata si comincia col lavoro per la grana. Nebbia in Valpadana, tutti quanti dormono sti figli di puttana. Accendo, volume mi addormento, non è che mi lamento, non vedo prospettive in sto momento. Scendo, chiudo la portiera, proprio in sto momento penso, meglio fabbrica o galera. Timbro il cartellino come un bancomat, spesso sono stanco ma qui non siamo a Gardaland. 40 settimana tra gli amici chi ti infama, ho tanta voglia di venire fuori da sta trama. 100 battiti per cancellare atini, li vedo dentro scatini, macchine portatili, ma alle 2 è finita. In fretta verso casa inizia un'altra partita. È reale, tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, tutto questo è fottutamente reale, è reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, tutto questo è fottutamente reale. Una ragazza mi tende la mano, dread biondi, 4 cani, marciapiedi di Milano. Anche lei vuole i soldi e io la sento lontano. Resto mani nelle tasche ed è così che viviamo. Camminiamo nella folla ma non ci conosciamo. Respiriamo inquinamento ma non ci preoccupiamo. Costruiamo meccanismi dove poi ci chiudiamo. Distruggiamo come sismi, come fuochi bruciamo. Ciao. Guardo le vetrine dei negozi, mi scanso. 4 tipi come Fonzi avanzo. Passeggio dopo l'ora di pranzo. Alla tela alla parete c'è la moglie di Costanzo. Figo, insieme agli altri di Pigo. Un uomo finto che perde l'istinto, lo respingo. La realtà da cui attingo, la vedo con gli occhi e con la mano la stringo. È reale, tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, tutto questo è totalmente reale, è reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale. Tutto questo è fondamentalmente reale. Da piccolo pensavo fosse facile, invece tocca correre per non lasciarsi prendere. Spegnere, vivere, cercare di sorridere. Cercare di star bene con se stessi non è semplice. Complice è una realtà che spesso dà vertigine. Ricerca nell'origine, apprezza ciò che puoi. Il resto è solo limite. Il resto è solo limite. Il resto è solo limite. Tutto questo è reale, reale. Tutto questo è reale.